Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi parliamo di Zika, è il virus veicolato da una particolare zanzara che sta creando allarme in Brasile e in altri paesi del centro e Sud America, perché ritenuto responsabile dell'aumento del numero dei casi di microcefalia. La microcefalia è una malformazione del cranio e del cervello che si sviluppano con dimensioni inferiori alla media. Allora, Zika è sbarcato anche in Europa, è arrivato in Italia. Ci sono stati 4 casi che risalgono a 10 mesi fa, tutti risolti positivamente. I malati tra l'altro provenivano da paesi in cui il virus è endemico e al momento non sono stati segnalati altre persone colpite. Gli esperti italiani naturalmente raccomandano di non cedere agli allarmismi, la situazione è sotto controllo. Noi però abbiamo invitato la professoressa Maria Rita Gismondo, che è direttore della microbiologia clinica al Polo Universitario Sacco di Milano, per aiutarci, come si dice, a leggere la notizia, per dare una risposta a tutti i nostri dubbi e soprattutto per offrire la possibilità a chi sta partendo per un viaggio in Sud America o in Asia, o per chi è in programma di recarsi a Rio per le prossime Olimpiadi, di conoscere le attenzioni e le precauzioni. Quindi partiremo da Zika, ma ne approfitteremo naturalmente per tornare a parlare delle infezioni legate ai pizzichi di certe zanzare: malaria, dengue, West Nile. Siete in partenza? Siete rientrati da un paese del Sud America? Avete in programma di regalarvi un viaggio a Rio in occasione delle Olimpiadi? O invece viaggiate spesso per lavoro? Chiamateci 800 24 0024. Tra poco. Per la pagina di denari invece partiremo dalla notizia del crollo degli ultimi 3 piani di un condominio romano su Lungotevere e Flaminio. Ne avrete certamente sentito parlare, una tragedia sfiorata grazie alla segnalazione, evitata grazie alla segnalazione di una signora, un abitante di un appartamento appunto di questo condominio, ma anche sembrerebbe causata da alcune negligenze nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione in un appartamento. Si tratta sicuramente di una eventualità molto rara, per fortuna, ma questa notizia ci ha dato lo spunto per capire quali sono le informazioni da condividere, gli elementi da verificare quando si decide di avviare un lavoro di ristrutturazione in un condominio. Che ruolo ha l'amministratore? Chi ha la responsabilità in caso di danni anche gravi? E soprattutto che tipo di informativa deve circolare fra proprietari degli appartamenti in questione e appunto chi ha l'incarico di gestire dal punto di vista amministrativo tutto l'edificio? E poi cercheremo anche di capire se ci sono gli strumenti assicurativi per tutelarsi da eventualità di questo tipo. 800 24 00 24, cominciate se volete a prenotare i vostri interventi. Raccoglieremo tutti i vostri dubbi in materia. Con noi a partire dalle 11.15 ci sarà l'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond, che è l'associazione italiana condomini. Allora, Zika, Deborah, sentirlo nominare per la prima volta, sì, si potrebbe pensare al nome di un cantante, no? Suonerebbe bene, perché no? Zika, perché no, no? Invece l'abbiamo anticipato, il virus veicolato da questo tipo di zanzara che sta creando molto allarme in Brasile, in paesi del centro e Sud America, perché viene messo in relazione con l'aumento dei casi di una malformazione fetale, e il numero dei casi è significativamente aumentato nell'ultimo anno negli stati del nord-est del Brasile. Ma tra l'altro l'infezione trasmessa dal pizzico di questa zanzara pare anche collegata con l'incremento di una sindrome molto rara in realtà, che colpisce nervi e muscoli e che può causare una paralisi temporanea. Di Zika, l'abbiamo detto, ci sono stati 4 casi solo in Italia, tutti risolti positivamente, al momento nessun allarme. Ma quando i virus guadagnano le pagine dei giornali, occupano i notiziari, generano sempre un po' di dubbi e qualche preoccupazione. Allora, per fare chiarezza e soprattutto ricevere tutte le informazioni utili per evitare di alimentare paure e allarmismi, abbiamo in linea con noi una grande esperta a cui chiederemo anche di parlarci delle altre infezioni legate alle zanzare. Abbiamo il piacere di avere oggi qua in linea con noi la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore della microbiologia clinica al Polo Universitario Luigi Sacco di Milano. Buongiorno e bentornata. Bentornata. Buongiorno, direi che torno quando ci sono nuove emergenze, bentornata non è che me lo meriti proprio, però vediamo di dare una dobbiamo nota cercare di un bel speranza tema e di ottimismo come sempre. Allora iniziamo da una bella carta d'identità di questo virus che abbiamo detto viene trasmesso da una zanzara che in realtà è una vecchia conoscenza, professoressa Gismondo. Sì, è sempre la sua solita zanzara alla quale noi attribuiamo anche, ed è provato, la trasmissione di altre infezioni dal nome strano, la dengue, la chikungunya, la febbre gialla. E a parte la febbre gialla, dengue, chikungunya, West Nile sono dei nomi che sono apparsi adesso sui nostri testi di microbiologia, diciamo. Prima si citavano come rare infezioni di altri continenti, e invece sappiamo che con il cambiamento climatico, con i flussi migratori in senso anche di viaggi turistici, insomma questa umanità che circola, è ovvio che i problemi infettivologici da un posto all'altro si spostano e diventano mondiali, e così è accaduto per queste infezioni. Vorrei dare subito una nota di tranquillità, nel senso che mentre c'è una certa allerta e una certa preoccupazione nei paesi del Sud America, del Sud-Est Asia, in alcuni paesi dell'Africa, perché lì la zanzara vive e si riproduce, noi ancora in Italia e in Europa, a parte qualche rarissima segnalazione, non siamo endemicamente presenti con la zanzara, con l'Aedes aegypti, quindi manca il vettore. Essendo queste malattie che non si trasmettono da uomo a uomo, questo è molto importante, i nostri ascoltatori che vanno in Brasile, che vanno nei posti dove si dice esserci questa infezione, non devono temere i contatti umani, ma devono temere di essere punti dalla zanzara, e magari poi, se mi darà tempo, daremo qualche consiglio anche per evitare questa brutta bestia. Questa brutta bestia, 800 24 00 24, per evitare la brutta bestia, ma soprattutto anche per fare tutte le vostre domande, se siete in partenza, se siete tornati da un viaggio, se avete in programma andare a Rio per le Olimpiadi. Noi siamo qua. E a proposito di Brasile, alcuni del Sud America, proprio per la grande preoccupazione dell'aumento dei casi di questa malformazione del feto che comporta, professoressa Gismondo, mi aiuti lei, una testa più piccola dermale e quindi possibili limiti nello sviluppo cerebrale. Alcuni paesi dell'America Latina hanno invitato le donne a rimandare le gravidanze, e gli Stati Uniti, dove tra l'altro si sono verificati 3 casi nello stato di New York, hanno ampliato, per così dire, l'elenco delle destinazioni da evitare alle donne in gravidanza. Io vorrei che lei ci commentasse e ci dicesse cosa ne pensa di queste cautele, di queste raccomandazioni. Guardi, io penso che la prevenzione non è mai troppa. Innanzitutto queste microencefaliti o comunque queste microcefali, sono sicuramente numerosi, ma ancora non è appurato che al 100% sia questa zanzara, anche perché non ci si spiega perché solo in Brasile questi casi e non in altri stati, in altre zone del mondo dove questo virus c'è stato e si è diffuso. C'è stata una mutazione? Non lo sappiamo, quindi ancora solo cautele. Il CDC di Atlanta, che è un po' la nostra organizzazione europea di sanità vista in ambito americano con proiezioni internazionali, ha pubblicato delle precauzioni da seguire, cioè c'è un elenco di stati, e sono moltissimi, praticamente tutto il Sud America e molta parte del Sud-Est Asia, in cui si dice attenzione se viaggiate, precauzioni che poi alla fine per tutti si identificano nel vestirsi non troppo colorati, perché la zanzara se no ci scambia per un fiore, e poi quello di mettersi, di spruzzarsi con dei repellenti. Ecco, questo è estremamente importante, perché quando si va in viaggio si compra il primo repellente che si trova in supermercato, spruzzandolo un po' così intorno al viso, alle braccia, sì, si pensa come di se fosse un profumo. Ecco, non è così. Le precauzioni devono essere ben precise, ed è l'unica cosa che può salvarci come barriera a queste infezioni. Il buon uso è prendere i vestiti che si ha intenzione di indossare, spruzzarli interamente con una sostanza che è la dietilamide, lo dico piano in modo che prendano nota, e se si va in farmacia e si dice desidero il repellente per andare nelle paludi, si fa per dire, ma comunque è, in effetti volgarmente è una prevenzione di insetti da paludi, la farmacia ti dà questo prodotto, viene consigliato anche da tutte le ASL, dagli uffici dedicati ai viaggi. Ecco, allora si spruzza il vestito, si lascia un attimino asciugare, poi ci si spruzza interamente, comprese le caviglie, perché purtroppo il punto debole diventa collo e caviglie, non si sa perché si trascurano, bisogna assolutamente spruzzare del repellente anche lì, coprirsi il più possibile, nel senso che non è vero che si sente meno caldo se si va scollate, con le maniche lunghe però di tela, di lino, di un tessuto leggero, non si soffre di più il caldo, ma si è coperti e quindi aumenta la nostra protezione nei confronti di queste zanzare. Un argomento a parte è per le donne che pensano di poter essere incinte. Ecco, di questo parliamo, professoressa Gismondo, subito dopo le informazioni sul traffico. Donne che, come ha sottolineato la professoressa Gismondo, pensano di essere incinta. A tra poco con le vostre domande all'800 24 0024. Cuore e denari. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio. Siamo tornati insieme, 800 24 0024. Siete in partenza? Siete rientrati da un paese del Sud America? Avete in programma di regalarvi un viaggio a Rio, magari in occasione delle Olimpiadi, o invece viaggiate per lavoro? Restate con noi. Oggi in linea abbiamo la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore della microbiologia clinica al Polo Universitario Luigi Sacco di Milano, e con lei stiamo parlando di Zika, il virus veicolato delle zanzare Aedes che sta creando molto allarme in Brasile. Andrea, buongiorno, ci chiama da Vicenza, ha raccolto il nostro invito, abbiamo chiesto infatti ai nostri ascoltatori di mettersi in contatto con noi per avere delle indicazioni riguardo a delle partenze per viaggi lontani. Andrea, dove andrà? Buongiorno, buongiorno. Sull'isola di Morea in Polinesia francese. Ecco, vabbè, sono sacrifici che qualcuno sì, d'altronde deve pur fare. Sì, mi rendo conto che sono sacrifici. Andrea, allora? L'anno scorso ci sono stato e praticamente ho scoperto, diciamo, già sapevo di questa zanzara che può dare la cicingugna o la zenga, o dengue come si chiama, adesso sì, non so. Esatto. E niente, ho fatto una buona sorta di autan. E difatti è andato tutto bene. Siccome devo tornare, e sentendo la trasmissione, mi pare utile sapere l'entità. Vede, Andrea, siamo come il cacio sui maccheroni. Professoressa Gismondo, poi torneremo alle donne in gravidanza, perché c'è stato un ascoltatore ci segnala che c'è stato molto allarme a seguito di queste notizie. Ma intanto, Andrea, parte in Polinesia, si è trovato bene perché torna. Ha preso un repellente di quelli comuni che si trovano ovunque, supermercati, farmacia, eccetera. Ha sentito parlare delle malattie trasmesse dai pizzichi delle zanzare, in sostanza che fa? Regala a me, a Deborah, il biglietto della Polinesia e sta a casa, potrebbe essere una cosa, no? Un gesto carino. No, un gesto carino. A me. A lei ci portiamo la dottoressa Gismondo e siamo tranquille. E andiamo a fare prevenzione. No, dovrebbe, come ho detto prima, deve andare in farmacia e chiedere il repellente zanzare da palude, perché il repellente migliore, più forte, per le quali le zanzare non hanno resistenza. Per essere sicuro deve chiedere proprio questo repellente. Se vuole poi attraverso il sito del Radio 24 scriviamo la sostanza, è dietilamide, scritto DEET come acronimo. Se usate questo repellente, io ovviamente non sto parlando di una marca ma di una sostanza, potete assolutamente al 90% essere sicuri che le zanzare si allontanano. Ma noi oggi vogliamo in qualche modo rassicurare anche tutte le donne in gravidanza che delle notizie di Zika sono state terrorizzate. Ce lo racconta anche un nostro ascoltatore su WhatsApp. La sua compagna si è molto allarmata e ci dice che il reparto di ginecologia del suo ospedale è stato preso un po' d'assalto. In realtà, in effetti, i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie statunitensi consigliano alle future mamme che hanno soggiornato in aree in cui la presenza del virus è documentata di sottoporsi a controlli per verificare il possibile contagio. Ma leggevo ieri un bell'articolo di Adriana Bazzi sul Corriere della Sera che sottolineava che i danni potrebbero avvenire nei primi 3 mesi di gravidanza ed è possibile in questo periodo che la donna non sappia di essere incinta. Allora la domanda sorge spontanea: che cosa si fa? Si fa un test di gravidanza prima di partire? Consigliabile. Io gliela buttavo lì, invece ho detto una cosa intelligente, vedi, no, che ogni tanto mi scappa. No, non è vero, penso che ne dica sempre molte. È consigliabile e fra l'altro è proprio espressamente consigliato dal CDC di Atlanta, che dice: donne che non sanno di essere in stato di gravidanza e che devono recarsi in questi paesi, ripeto, tutti consultabili su internet, dovrebbero farsi un test in modo da essere sicure di non essere in gravidanza. Certo, se dovessero essere in gravidanza, soprattutto nei primi mesi, io sconsiglierei, se proprio il motivo non è più che fondato, di andare nei paesi clou di questa infezione. Dobbiamo dire che comunque anche il CDC di Atlanta si pronuncia come ipotesi di legame tra Zika virus e le conseguenze sul feto. Ancora devono essere assolutamente accertate, bisogna fare degli studi maggiori, però è ovvio che la cautela, soprattutto quando si aspetta un bimbo, debba essere massima. Quindi, sinteticamente, fare un test di gravidanza prima di partire. E noi andiamo a Gorizia. Debora, che dici? Da Luca. Gorizia non è una città che ci chiama moltissimo, sono rimasta subito colpita, quindi Luca, benvenuto. No, buongiorno. Faccia da apripista. Ma sono un viaggiatore, vi ascolto sempre. Bravo Luca. Complimenti per la vostra trasmissione. No, io volevo portare la mia testimonianza perché nel 2014, in agosto, ho contratto la dengue in Indonesia. Allora mi ha un po' incuriosito sto fatto della Zika. Tra l'altro la dengue credo che sia anche abbastanza, insomma, dannosa. Vedo anche che il tasso di mortalità è abbastanza elevato. Io stavo bene, ho preso la dengue, sono stato una decina di giorni fuori combattimento. Immagino. La malattia, sempre con 40 di febbre per 6-7 giorni, e poi gli ultimi 2 giorni ho dovuto ricoverarmi in ospedale perché le piastrine veramente erano andate sotto le 50.000 unità, e perciò era pericoloso, mi hanno consigliato, e lì mi hanno fatto delle flebo, che non sono altro, non so, delle flebo dove ritrattano il fisico alla fine, perché comunque come avrebbe detto la mia nonna, lei è qua che ce la racconta, quindi tutto è andato bene. Professoressa certo. Gismondo, allora, anche questa è trasmessa da una zanzara. Sì, è sempre la stessa zanzara, e voglio cogliere l'occasione per dare un suggerimento a chi parte. Di solito noi mettiamo degli antifebbrili in borsa. Ecco, non usate aspirina quando andate in questi paesi, ma tachipirina, per un semplice motivo: siccome la dengue è una malattia emorragica e l'aspirina aumenta la capacità emorragica, potrebbe essere veramente dannosa qualora fossimo infettati, colpiti da dengue, e ancora non dovessimo saperlo, perché sono dei sintomi iniziali molto che confondono molto il paziente, cioè mal di testa, senso di spossatezza, una sindrome quasi influenzale. Ecco, non prendere l'aspirina, non mettete l'aspirina nel vostro bagaglio, portatevi invece la tachipirina. Allora, voglio leggerle, prima di andare alle notizie del GR, poi la professoressa Gismondo sente con noi il GR e torna nella seconda parte di Cuore Denari per rispondere alle vostre telefonate, alle vostre indicazioni. Parleremo anche di malaria, perché professoressa Gismondo, approfittiamo, anche la malaria è trasmessa dal pizzico di una zanzara, diversa rispetto a quella di Zika, ma ci sono delle informazioni utili che vanno date. Una mail di Alberto: sono rientrato ieri dal Venezuela, in effetti anche per la situazione locale estremamente difficile. E molti hanno febbriciattole, il problema è malesseri vari, ma il problema è la mancanza totale delle informazioni. Io quindi ho portato scorte di paracetamolo e antipiretici, oltre a scorte dei repellenti, tuttavia il problema qui è endemico. E ci saluta facendo i complimenti. Professoressa, la mail di Alberto ci porta in una situazione in cui l'allarme in realtà c'è, è presente. E il... Non abbiamo nulla da aggiungere, ha fatto bene a portare il paracetamolo, cioè l'antipiretico che non è aspirina, ha fatto bene a prendere, spero a usare, oltre che mettere in bagaglio, l'insetto repellente. Cosa dire, stare lontano da acque stagnanti, ma in alcuni paesi è assolutamente ridicolo dare questo suggerimento, perché c'è acqua stagnante da tutte le parti. Stare lontano dai rifiuti, bisogna capire, certo, le condizioni. E poi attenzione, dobbiamo anche distinguere tra i turisti che vanno in alcune metropoli e turisti che poi si allontanano, vanno nelle foreste, vanno a fare safari, vanno a fare gite. Ecco, è un pericolo assolutamente di entità diversa. Ormai quasi tutte le metropoli mondiali hanno, per eccezione di qualcuno, hanno uno standard molto più alto che non le loro periferie. Ci fermiamo, andiamo al GR e ritorniamo con la professoressa Gismondo. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà. Cuore e denari. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco. Sì, parliamo di un virus trasmesso da una zanzarita, parliamo di Zika, sta creando allarme nel Sud America, in Brasile in modo particolare. Noi cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni per non perdere la testa, per non preoccuparci. Ci aiuta oggi la professoressa Maria Rita Gismondo, che è direttore della microbiologia clinica al Polo Universitario Luigi Sacco di Milano. Professoressa Gismondo, tutte le autorità sanitarie europee sottolineano, come ha fatto lei, che Zika non si trova in forma naturale, che non si contagia direttamente da persona a persona, anche se in realtà ho letto che c'è il sospetto che si possa trasmettere anche con rapporti sessuali, dato che è stato isolato il virus nello sperma di un paziente che era di un uomo che era tornato dalla Polinesia. Sì. Allora, ci interessa questa cosa? Un paziente non significa nulla. Bisogna capire, il fatto che si isoli in un liquido biologico, qualunque esso sia, un virus, non significa che sia la carica infettante, cioè il numero di virus che poi possa, se contagiato, dare un'infezione. Quindi, per carità, precauzioni a mille, non siamo lì a crearci un altro panico. Bene. Abbiamo appena chiuso l'Ebola, eravamo contenti e rilassati, adesso Zika. No, Zika in questo momento non è un allarme. Giusto, attenzioni di precauzioni e di prevenzione, le stesse che avremmo dovuto impiegare per prevenire la malaria, perché sono uguali. Quindi non è cambiato nulla sul piano dei consigli ai viaggiatori. Però, professoressa Gismondo, così le tiriamo fuori tutte. Quando in Italia arriverà la stagione, riprenderà la stagione di attività biologica delle zanzare, se una persona tornasse col virus Zika nel sangue, venisse punto da una nostra zanzara, noi ne abbiamo, Edes è parente della zanzara tigre. Allora, la nostra zanzara tigre potrebbe diventare portatrice e in grado quindi di infettare la persona che punge dopo e così via di seguito? Perché adesso le zanzare sembrano, devo dire che a casa mia no, ma sembrano un po' addormentate, ma poi a un certo punto inizieranno anche la loro stagione. Dunque, la zanzara tigre, che prima non esisteva sul nostro territorio e che sembra essere la più accogliente, tra virgolette, di questi virus e quindi la possibile trasmettitrice di questa infezione, è ancora poco diffusa e comunque al momento non è stato dimostrato che possa trasmettere Zika virus. Dobbiamo metterci davanti uno scenario in evoluzione anche perché il clima sta cambiando, quindi non più che preoccuparci la zanzara tigre che potrebbe nel futuro, ad oggi non è accaduto, trasmettere una Zika virus, che implica poi tutta una serie di fenomeni biologici che non è qui il momento di approfondire. Noi dobbiamo pensare che cambiando il clima si stanno muovendo le popolazioni di insetti, quindi non so, la zanzara che trasmette la dengue piuttosto che quella che trasmette la malaria, diventeranno da qui a poco possibilmente delle zanzare che vivranno nella nostra fascia geografica. Questo è inevitabile. Chi studia questi movimenti epidemiologici ha chiara la carta proprio geografica e infettivologica, come si stia muovendo. Quindi quello che possiamo fare, non possiamo eradicare questi insetti, anche perché poi si creerebbe un buco nella catena biologica, altri problemi. Possiamo solamente contenerne la diffusione e ci sono anche dei mezzi biologici per contenerle, ci sono degli studi per esempio che stanno abbassando la proliferazione delle zanzare immettendo in natura delle zanzare sterili, ci sono tanti studi in merito per moderare la crescita e lo sviluppo delle zanzare, ma soprattutto dobbiamo essere attenti noi a evitare tutti quei comportamenti che ci esporrebbero alla puntura di questi insetti. È inevitabile, quindi dobbiamo farcene una ragione. Il clima sta cambiando, il clima e cambierà anche le zanzare. Certo, ma non solo le zanzare, ma i roditori, il mondo sta cambiando, e quando si dice che il mondo sta cambiando, il clima, se cambia, non è che cambia solo perché c'è un temporale in più o una siccità in più, c'è tutta una conseguenza biologica, naturale, che si muove. Allora, oltre che comportarci in maniera tale che l'individuo non appesantisca questo rapido cambiamento con ovviamente un comportamento ecologico, competente, responsabile, possiamo solo cercare di essere più cauti verso quelli che potrebbero essere i pericoli. In questo caso non possiamo fare altro che usare determinati vestiti non eccessivamente colorati, non per esempio il bianco e dei repellenti con una certa quantità. Abbiamo solo questo in questo momento. Professoressa Gismondo, per la malaria? Prego. Per la malaria si sta sperimentando con buoni risultati il vaccino, quindi io penso che è una questione di tempo, ma avremo anche delle vaccinazioni anche per questi virus. Allora, professoressa Gismondo, prima di salutarla, lei è bravissima, ha il dono anche della sintesi, in un minuto, così noi facciamo anche un taglietto e rassicuriamo le persone che magari sono arrivate tardi a sentire Cuore Denari e vorrebbero avere una sintesi, un bignamino dello Zika. Un minutino, tutto quello che c'è da sapere, da fare e da evitare. Caspita, io sono abituata a fare le domande ai miei studenti, non viceversa, spero di farcela. Allora, Zika virus esiste già da tempo, è stato scoperto nel 2008 nel Senegal e man mano nel tempo si è visto che questo virus, che per essere trasmesso deve essere trasportato da una zanzara, quindi no contatto uomo-uomo, ma attraverso una zanzara che punga un uomo infetto e poi punga un altro uomo al quale regala questo virus che porta, spostato anche in zone diverse dal Senegal, si è spostato e ha, attraverso la diffusione della zanzara, non del virus, perché il virus deve essere veicolato attraverso la diffusione della zanzara si è spostato verso il Sud America e il Sud-Est Asia. A recente allarme è questa nascita di bambini in Brasile, addirittura sembrano 4-5 mila, che nascono con la testa molto piccola, microcefali, e quindi problemi di sviluppo anche in seguito. A oggi non è scontata la causa di Zika virus per quanto riguarda questa patologia, ci sono anche delle perplessità, perché questo fenomeno si è manifestato solo in Brasile, non in altre zone dove c'è Zika virus, quindi o è un virus mutato oppure non è lui la causa unica di questa malformazione. Cosa si può fare? È importante avere una prevenzione di tipo generale, quindi insetto repellente, consigliato in farmacia quelli che sono per palude, quindi quelli più forti a carica maggiore. Portare se si è una donna, se si è donne che potrebbero essere in stato di gravidanza, se si va in quei paesi dove Zika virus è diffuso, fare prima un test di gravidanza. Al primo sintomo di mal di ossa, febbre, che di solito si manifestano dopo circa 6-7 giorni, 4 giorni dalla puntura, subito ricorrere a un punto salute. Prima di partire, consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri Viaggiare Sicuri, che dà tutte le informazioni non solo sui rischi di salute, di sanità e quindi i vari paesi, ma anche a chi rivolgersi in quel paese. Professoressa Gismondo, direi che la commissione si è riunita, saremo per il 30 lode. Esatto, con bene. Anche bacio accademico. Parola aggiungerei. Microbiologa. Va bene, ha un futuro per le mani. Professoressa grazie. Gismondo, grazie per essere stata con noi. Un abbraccio e a presto. È sempre un piacere. Buona giornata a tutti. Roma, crollo in un palazzo sul Lungotevere, l'allarme di un'inquilina evita la strage, ipotesi collasso per i lavori in un appartamento. Una serie di scricchiolii sospetti, l'allarme tempestivo di un'inquilina di questa palazzina storica che si affaccia sul Lungotevere Flaminio hanno impedito che si consumasse la tragedia. Allora, vi sarete imbattuti senz'altro in questi giorni in qualche telegiornale, fra i cui titoli appunto compariva anche questa notizia. Allora, per la pagina di Denari, lo avrete capito, lo avevamo anche annunciato prima, ci occupiamo della sicurezza delle nostre abitazioni. Per le zanzare in appartamento inutile chiamare l'amministratore di condominio, ce la dobbiamo cavare da soli, naturalmente deve impegnarsi l'amministrazione affinché chiaramente l'edificio sia anche tenuto in condizioni di pulizia che non favoriscono il proliferare almeno in estate delle zanzare. Detto questo, parliamo di sicurezza dei condomini. Non in termini generali, appunto, ma magari di situazioni specifiche che però si possono verificare. Vogliamo collegarci a quel fatto, ne parlavamo poco fa, che ha animato negli ultimi giorni le cronache romane, vale a dire il crollo degli ultimi tre piani di una palazzina sul Lungotevere Flaminio. Solo per una pura fatalità, a quanto pare, non è finita in tragedia. Fatto sta che ora gli abitanti di quella palazzina sono senza casa, si sta tentando di risalire alle cause dell'accaduto, erano in corso dei lavori di ristrutturazione di un appartamento del quale pare l'amministratore di condominio non era stato informato e pare addirittura che questa persona non fosse neanche a conoscenza che ci fosse un nuovo proprietario dell'appartamento dove erano in corso i lavori, che aveva appunto comprato questa casa a metà dicembre. L'atto di compravendita risulterebbe firmato a metà dello scorso mese. Fra l'altro lo stabile in questione ora va messo in sicurezza e anche qui ci sono molte difficoltà che ruotano tutte intorno ad un'unica domanda: chi paga? Perché ovviamente pare che se ne debbano far carico tutti i proprietari. Ecco perché ci è sembrato utile fare un punto della situazione proprio su questi temi. Intanto, come funzionano gli obblighi di comunicazione? Come è possibile che in questo condominio questo nuovo proprietario non abbia comunicato nulla a nessuno? Oltretutto, se le cronache riportano tutto correttamente, parliamo di un appartamento del valore di oltre 1 milione di euro, per cui anche un investimento abbastanza impegnativo, per il quale insomma che passasse tutto nel silenzio ci sembra un po' strano. Quante cose da commentare stamattina. Benvenuto, ben ritrovato e buon anno all'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond. Buongiorno. che è l'Associazione Nazionale Condomini. Condomini. Quindi è l'associazione che tutela la proprietà, la casa e appunto gli abitanti. Vede il condominio dalla parte dell'utente. Insomma. Ci spiegherà su questo tema che novità ha anche introdotto la recente riforma del condominio, proprio sugli obblighi informativi che gravano sui proprietari quando devono ristrutturare casa, ma ancor prima direi quando diventano proprietari di questi appartamenti. Allora io ho un Carmelo, te lo devo dire, mi sento un rimbombo alle cuffie stamattina che non è mai successo, per cui se mi mettessi in condizioni di sicurezza anche le mie orecchie sarei più contenta, se no devo chiamare l'importante è che ho chiamato l'amministratore dello studio in questo caso, la zanzarina, perché magari è arrivata anche qua. Allora 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Adesso va molto meglio, visto che l'ho richiamato all'ordine, si è spaventato con la mia solita perentorietà. 800 24 00 24, il numero verde al quale potete farci naturalmente tutte le vostre domande su questo tema. Avvocato Cirla, noi ovviamente conosciamo i fatti solo sulla base di quello che abbiamo sentito dal telegiornale, certo, e sulla base di quello che abbiamo letto dai giornali in questi giorni. Non siamo a Roma, partiamo appunto da quello che leggiamo. Com'è possibile che in questo appartamento sia avvenuto prima un cambio di proprietà e poi l'avvio di lavori di ristrutturazione senza che l'amministratore di condominio ne fosse informato? Può davvero succedere? È il classico caso di inosservanza della legge, perché abbiamo parlato tanto della riforma del condominio e questo è i casi proprio espressamente previsti dal nuovo legislatore, nel senso che il legislatore ha posto l'obbligo a chi vende, a chi cede l'appartamento, di comunicarlo subito all'amministratore, anche perché gli ha imposto in capo una sanzione, cioè nel senso che dice: se non lo comunichi all'amministratore, tu continui a rispondere in solido con l'acquirente delle spese condominiali fin tanto che non gli mandi la copia del rogito, sostanzialmente. Quindi è previsto questa ipotesi proprio per tenere aggiornato l'amministratore su chi va e chi viene all'interno del condominio. Conoscendo però il condomino che appena arriva in casa ovviamente ristruttura l'appartamento, cambia, fa, disfa, batte e quant'altro, ha previsto anche una specifica norma che ha capovolto un po' un principio generale che c'era prima e comunque l'ha concepito in questo modo. Tutti i condomini che effettuano lavori all'interno dell'appartamento, del proprio appartamento, non devono assolutamente pregiudicare l'estetica del condominio, la stabilità e la staticità dell'edificio, e in genere un obbligo generale. Questo, insomma, questo qua è un bel disastro, l'ha combinato. Ecco. Esatto. Mamma mia. E poi, visto che il nostro legislatore è previdente, invece di prevedere tutte le possibili cause di comunicazione all'amministratore, proprio alla fine di questo articolo, che è il 1122, cosa dice? In ogni caso che tu metti mano al tuo appartamento, devi darne comunicazione all'amministratore. Allora qui già si è formato, insomma, a distanza di un po' di tempo che è entrata questa riforma, un po' di opinioni, no? È chiaro che il condomino che entra in casa e sbianca il suo appartamento, certo, non deve comunicare nulla all'amministratore. Beh, però magari se c'è il via vai di imbianchini che imbratta, ecco, magari il tappeto che va ad arricchire il corridoio condominiale, magari lì forse sarebbe anche carino che una piccola comunicazione venga fissa magari nella bacheca. Che normalmente noi notiamo che i più diligenti, diciamo, i condomini più diligenti, prima di iniziare anche a sbiancare il proprio appartamento, non mettono un bel cartellino sull'ascensore: ci scusiamo con i condomini, l'eventuale disagio, i disagi e così. Oppure, come sottolineava prima, anche le orme bianche sulla passatoia. Ecco che dico, questi sono tutti segnali di cui l'amministratore dovrebbe accorgersene, no? Perché volete che in questo caso, ecco, non ci sia un condomino che dica: ma la passatoia è sporca, caro amministratore. Sono tutti campanelli d'allarme. Quindi il condomino, certo, deve avvertire l'amministratore, ma anche l'amministratore, se fa visto che me l'avete chiamato in causa, io questo contributo lo volevo mandare in onda dopo, ma direi che se Carmelo è pronto ce lo può far sentire immediatamente. Ho rubato dal telegiornale di Rai News 24 appunto questa intervista che una collega ha fatto all'amministratore di condominio di questo stabile di Roma, dove appunto proprio lui denunciava il fatto che non sapesse nulla, e quindi vediamo un po' se riusciamo a sentirlo. Lo stabile è sano, non aveva nessun problema, quindi si pensano con causa tra i vasi e i lavori. Quindi dei lavori in corso al quinto piano e questi vasi sul terrazzo del sesto piano. Questo sì, si parla. Preventivi per la messa in sicurezza, perché questo per il momento è a carico vostro. Sì, questo sì. L'anticipazione di queste spese è a carico nostro, quindi ci parliamo soltanto di messa in sicurezza chiaramente al momento. C'è una situazione d'emergenza ancora, c'è il rischio che crolli il solaio dell'ultimo piano rimasto, il quarto piano? Sì, è quello che ci preoccupa di più infatti, cioè, quindi è proprio per questo che stiamo correndo per sistemare questa situazione. C'è il solaio, non sappiamo quello che possa succedere, se c'è un crollo poi magari scendiamo anche più giù, quindi questa è la paura. Allora, mi sembrava che ci fosse anche un'osservazione relativamente alla sua conoscenza di quello che fosse appunto il tema della proprietà prima dell'accaduto. Non dice nulla, era un po' restio naturalmente a rispondere alle domande. Adesso, la questione della messa in sicurezza di questo edificio, avvocato Cirla, quanto deve spingerci appunto, deve spingersi l'amministratore nella gestione anche di questa operazione? Chi deve tirar fuori i soldi? È vero che devono farlo appunto i legittimi, i proprietari attuali degli altri appartamenti? Sì, diciamo nell'immediato, nell'immediato, perché comunque il condominio è custode del bene, quindi in prima battuta diciamo che deve intervenire lui per l'emergenza, per lo sgombro delle macerie, per la messa in sicurezza ovviamente dell'edificio, però poi è una catena, perché si andrà man mano a scoprire le varie responsabilità. E quindi perché dico di una catena? Perché si può parlare di responsabilità dell'impresa se effettivamente la responsabilità è per i lavori eseguiti, del proprietario dell'immobile, man mano anche al condominio, perché non dimentichiamo che la stabilità, la conservazione delle parti comuni comunque rientra in un obbligo dell'amministratore, che a ogni campanello deve intervenire ovviamente. Allora, 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per intervenire in diretta, per farci delle domande sul tema di questa mattina. Quindi, tra la compravendita di un immobile, quali sono gli obblighi di informativa di cui siamo responsabili naturalmente, che dobbiamo dare, soprattutto se andiamo ad abitare in un condominio, chiaramente parliamo di queste situazioni, quindi chi e come deve attivarsi per la comunicazione all'amministratore di questo cambio di proprietà, e poi soprattutto se avviamo dei lavori di ristrutturazione, chi, come, dove dobbiamo farlo sapere naturalmente, con che forme anche, scritte, non scritte, verbali e quant'altro. Adesso andiamo alla borsa, poi introdurremo anche l'altro tema, perché questo crollo ovviamente ci chiama in causa tante responsabilità. Parlavamo prima a microfoni spenti anche di come deve essere attribuita questa all'impresa che fa i lavori, perché per essere venuto giù così il quinto piano di una palazzina, là abbiamo sventrato letteralmente un appartamento, tirato giù anche tutte le mura portanti, per cui è evidente che qua c'è anche una responsabilità di chi si era incaricato di progettare questi lavori. Insomma, tutte ipotesi che facciamo noi stamattina, che con l'avvocato Cirla commentiamo dopo i mercati. Cuore e denari. Tre i piani crollati, un cedimento strutturale che ha interessato settimo, sesto e quinto piano di un edificio al Civico 70 vicino al Teatro Olimpico di Roma, Lungotevere e Flaminio. I lavori in un appartamento di questo edificio potrebbero aver causato il crollo, se ne è parlato molto nei giorni scorsi nel mirino, i lavori di ristrutturazione di questo appartamento appunto del quinto piano, dove sarebbero stati eliminati tutti i tramezzi, e sul sovraccarico del sesto, sulla cui terrazza hanno raccontato appunto alcuni testimoni, sembra ci fosse una vera e propria giungla di piante con vasi di cemento pieni di terra e acqua. Insomma, queste le cause che avrebbero portato poi a questo disastro, che solo per pura fatalità non si è trasformato appunto in una tragedia, non ci sono state delle persone che ci sono andate di mezzo, addirittura magari con la propria vita. Allora, stiamo parlando di quelle situazioni in cui, se avviene un cambio di proprietà in una casa o dei lavori di ristrutturazione, come, quando e perché dobbiamo fare tutte le dovute comunicazioni. Non parlo solamente, avvocato Cirla, segretario nazionale di Assocond, delle comunicazioni da fare al comune se devo appunto sventrare una casa e rifarla da cima a fondo. Parliamo delle comunicazioni interne. Allora, l'ABC, ritorniamo ai temi di prima, rifacciamo un punto, un bignamino, come lo chiamerebbe Nicoletta, della situazione. compravendita, divento domattina proprietario di un nuovo appartamento in un condominio. Devo farlo sapere io l'amministratore o deve farlo sapere il vecchio proprietario? Primo punto. È il vecchio proprietario il più interessato, perché come abbiamo detto prima, lui risponde delle spese condominiali in solido con l'acquirente fin tanto che non invia all'amministratore la copia del rogito, sostanzialmente una copia autentica del rogito. Il problema si pone perché non sempre il notaio consegna immediatamente, anzi mai, la copia del rogito all'acquirente, però rilascia una dichiarazione e questo è più che sufficiente al venditore per notiziare l'amministratore. Prende questa bella dichiarazione del notaio, la manda anche via mail, per posta, come vuole, però se non altro ferma il suo obbligo di pagare le spese. Quindi è nel suo interesse fare questa comunicazione, direi. Che ha un doppio fine, no? Uno, quello di ripararsi lui da eventuali richieste dell'amministratore, perché poi si corre il rischio di creare il condomino apparente, no? Io so che il signor Tizio è sempre stato condomino e magari lo convoco ancora in assemblea se non ho notizia che lui ha venduto. No. E secondo, anche per una questione di trasparenza nel condominio, perché come sappiamo l'amministratore deve ormai dopo la riforma del condominio ottenere l'anagrafico dei condomini, quindi deve sapere chi c'è, chi entra, chi esce nel condominio, così come se si affitta, si dà in locazione o incomodato a qualcuno, l'amministratore deve sempre sapere chi sono i suoi gestiti. Tra l'altro, nei punti oscuri di questa vicenda di Roma sembra che il passaggio di proprietà sia avvenuto il 15 dicembre e ci stavamo chiedendo a microfoni spenti, ma com'è possibile che siano già partiti dei lavori di ristrutturazione così radicale al punto da far crollare tre piani? Quindi il sospetto è che siano partiti un po' prima e che il rogito formale sia avvenuto il 15 dicembre, ma che la disposizione dell'appartamento c'era già prima nei confronti di questa persona che ha fatto partire i lavori. Sì, direi che è abbastanza in uso magari stipulare il contratto preliminare di compravendita e concedere al promissario acquirente il possesso anticipato dei beni, chiaramente garantendosi per i lavori. Così. Però, a maggior ragione è proprio strano che nessuno sapesse nulla, ecco, che ci fossero questi lavori. Davvero, perché comunque nel momento stesso che faccio lavori importanti nell'appartamento ci vogliono le autorizzazioni comunali, i permessi, le concessioni e quant'altro. E in questo caso, se effettivamente c'è stato un possesso anticipato, vuol dire che tutto questo è stato fatto a firma del proprietario, no? Sebbene poi scarichi all'interno nel rapporto. Tra l'altro, la persona che occupava precedentemente questo appartamento era in affitto, che aveva chiesto anche alla proprietaria di questa casa il prezzo appunto per poterlo comprare, un prezzo che lui non si poteva permettere, per cui c'è anche un'altra situazione: la proprietaria legittima dell'appartamento non abitava lì prima della compravendita, per cui altro tema. Ma detto questo non significa che questa signora non dovesse comunicare all'amministratore senz'altro, che stava accadendo. Adesso andremo invece agli obblighi di comunicativa nel caso della ristrutturazione di una casa, sia che si diventi neoproprietari, sia che ci si abiti lì da un po' e naturalmente poi si esce per fare i lavori, e tutti gli obblighi che anche fanno capo all'impresa che gestisce i lavori. Però comincerei a sentire anche i nostri ascoltatori. Vuoi andare a Firenze prima o a Viterbo? Ma magari. Buongiorno Antonio, benvenuto. Sì, buongiorno. Niente, io nel 2008 ho comprato un appartamento e ho rifatto il bagno, piastrelle e mattonelle. Ora, mi avevano detto che dovevo presentare una DIA. Ma quando ho fatto i lavori? Nel 2008, Antonio? Sì, quando ho comprato l'appartamento. Io ho comprato nel 2008 e ho rifatto solo il bagno, diciamo, a livello di demolizione, cioè ho cambiato i sanitari, cambiato le piastrelle e le mattonelle. Un lavoro di 8 anni fa. Di che cosa paura adesso? Cosa è successo? No, niente, era solo a livello informativo se avevo sbagliato qualcosa, perché sapevo di presentare comunque sia una DIA, anche se era un lavoro di manutenzione ordinaria. Mi ricordo che attaccai un biglietto fuori ai condomini per il disturbo e comunque sia comunicai verbalmente, mi ricordo, non so come, al l'amministratore il fatto che avrei comprato quell'appartamento. Infatti. Anche perché dovevo insomma, guardi, ecco, tutte le sue eventuali malefatte, Antonio, sono potenzialmente cadute in prescrizione. Infatti, avvocato sì, Cira, facciamo, comunque, tranquillizziamolo. No, lui, certo, però, a distanza di 8 anni, vuole essere certo. Direi che prende la patente del modello condomino modello. No, perché fare i lavori diventa un po' una. Non un incubo, mi ci far pensare. Di cuore e di denari, mamma mia. La seconda è di più, credo. Ecco, però intanto sì, perché non si sa perché, ma tu ti fai un budget e poi vabbè che vedi tutte cose belle, poi quello triplica un po' perché chiaramente ti piace corredarti anche di cose belle. Però anche se fai le cose standard, il budget non è mai comunque, quello. Detto questo. Ecco, no, direi che ha rispettato tutti così i segnali che poi ha mandato il legislatore con la riforma, perché siamo nel 2008, la riforma del 2012, però il fatto di avere comunicato l'acquisto all'amministratore, l'ha fatto in forma verbale, adesso è opportuno farlo invece magari in forma scritta. Il fatto di avere messo sull'ascensore il cartello, il disturbo e quant'altro, direi che è un altro 10 lodi che si prende, e quindi negli interventi fatti poi non sono consistiti in abbattimenti di pareti o quant'altro, ha rifatto le piastrelle e sostituito i sanitari, quindi diciamo che siamo in perfetta regola. 800 24 00 24, se volete continuate a prenotare i vostri interventi. Adesso, prima di sentire Alberto da Viterbo, avvocato Cirla, allora, ritornando a questo caso di Roma che ha suscitato tanto rumore, oltre che clamore, e un bel po' di problemi lì a quella zona, perché poi si è interrotto il traffico, ci sono i problemi, è stata interrotta anche la stagione teatrale al Teatro Olimpico, naturalmente, dove c'era, adesso non mi ricordo, un attore anche famoso, mi ero scritta tutto ma poi lo vado a ripescare, forse Brignano, non mi ricordo chi, insomma, ha dovuto cambiare velocemente, andare al Brancaccio. Detto questo, avvocato, allora, c'è un'impresa che si incarica di questi lavori che non sono di normale sostituzione, appunto, di piastrelle. Intanto voglio dire, l'impresa doveva pur capire che se abbatteva tutte dei muri anche importanti oltre che portanti, quell'appartamento poteva venire giù. Quanta responsabilità c'è addosso all'impresa? Tanta, nel senso, e prima dell'impresa, anche se c'è un direttore lavori, un progettista, normalmente uno che ristruttura, soprattutto abbiamo detto prima, di un appartamento di una certa importanza, no? Perché insomma qualche centinaia di mila euro c'erano per l'acquisto, quindi magari si affida un architetto per ristrutturare, quindi il primo responsabile ovviamente è lui, no? Che sa le pareti da abbattere, nelle belle documenti si assegnano in rosso quelle da abbattere, in verde quelle che rimangono da costruire, insomma tutto un bel disegnino a colori, e quindi la prima responsabilità è sua. E dico, normalmente la preoccupazione del condomino è dire ma io non abbatto muri portanti. È un errore perché anche se si abbattono muri non portanti, io comunque, da qui il legislatore che dice devi comunicarmi, caro condomino, cosa fare, perché l'esempio è proprio da manuale: se in una palazzina di 8 piani tutti abbattono la stessa parete non portante, qualcosa ne risente l'edificio, certo. No, qualcosa ne risente, e mi sembra che qualcosa stia emergendo nel caso di Roma, no? Che già erano stati fatti interventi al terzo piano, al quinto piano e quant'altri. Sarà un caso magari che tutti abbiano abbattuto la stessa parete non portante. Quindi se da sé, presa in sé, non è un segnale, però se la comunicazione viene resa che tutti hanno abbattuto quella parete, ecco che qualche problemino c'è. Infatti, no. Anche per l'amministratore di condominio, poveretto. Certo, perché da qui la necessità del legislatore di prevedere, quando dicevo prima, in ogni caso tu devi comunicarmelo. Non sta a te, condomino, valutare se i tuoi interventi pregiudicano o meno la stabilità dell'edificio. Tu dimmi cosa fa. E poi l'amministratore, chiaramente attraverso i suoi tecnici, no? Perché l'amministratore non può sapere tutto, valuterà se effettivamente la tua parete l'ha già abbattuta il primo piano, il secondo, il terzo, il quinto e quant'altro, e quindi dà delle direttive agli altri condomini. 800 24 00 24, adesso andremo a sentire il traffico, poi pronti Alberto da Viterbo, Luigi da Milano, e lo spettacolo era quello di Max Giusti, non di Brignano, cambiato comico, insomma me ne scuseranno i diretti interessati, che comunque hanno visto compromessa la loro stagione teatrale. Sì, traffico tra poco. Cuore e denari. Alberto da Viterbo, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Allora, soltanto un brevissimo intervento, soprattutto perché anch'io, come l'ascoltatore di prima, ho comprato nel 2008 un appartamento degli anni 40 che aveva subito una ristrutturazione parziale. Mi era stato assicurato che tutto era andato bene dai periti che avevo consultato. In realtà poi, per una mia esperienza personale, era tutto fuori norma, quindi senza che il condominio avesse saputo niente. Però il mio intervento era al contrario. Noi come condomini molto spesso non abbiamo molti diritti, nel senso che non possiamo intervenire personalmente o altro. Le faccio un esempio: mi risulta che nel palazzo in cui abito, siamo 6 appartamenti, qualche appartamento sia senza riscaldamento e quindi probabilmente le persone che lo abitano, affittuari, dovrebbero riscaldarsi con mezzi di fortuna. Ah, ecco, quindi lei dice, ho l'impressione, diciamo, non abbiamo questa certezza. Per noi è abbastanza difficile, senza diventare molto antipatici, fare un tipo di controllo. Esatto. Se per esempio ci fosse una bombola del gas, alla fine voi riscriverete un altro bellissimo articolo sulla palazzina esplosa a Viterbo, ma però prima non si poteva intervenire perché si diventa antipatici e comunque... E comunque c'è anche una privacy, esatto. Allora guardi Alberto, associo al suo caso la domanda che Elena ci pone su Twitter: è possibile chiarire i confini della privacy dietro cui spesso l'amministratore si nasconde per non dare i recapiti dei condomini? Perché è chiaro che se ci sono dei lavori importanti e la faccenda si fa rumorosa, si risale facilmente all'appartamento in cui questi lavori si svolgono, ma per una mancanza di riscaldamento, e un riscaldamento fatto con strumentazione, non dico di fortuna, ma certo non tanto moderna come nel caso che sospetta Alberto da Viterbo, quanto può rivendicare un condomino la sua privacy? Allora, il concetto di privacy in condominio va un po' sfatato. No, perché spesso si sentono amministratori che proprio si trincerano, no, dietro questa privacy. È molto limitata la privacy nel condominio, a cominciare dalle notizie dei condomini e quant'altro. Se esce la notizia, esce ad esterni, allora è chiaro che intervengono le norme della privacy, ma nel momento stesso che vengono diffuse tra i condomini è un dovere dell'amministratore. Non a caso hanno creato l'anagrafe, e visto che io condomino posso in ogni momento andare dall'amministratore a consultarla, quindi se l'amministratore mi evita, certo, di andare nel suo studio e quant'altro e mi dice guarda che al terzo piano abita Pinco Pallino, sì, no, io devo dirglielo, non c'è privacy che tenga, non posso dirgli assolutamente, ma neanche l'amministratore è tenuto a saperlo, i dati sensibili, sì, no, ovvio, quello non interessa a nessuno, ma chi occupa l'appartamento, tant'è vero che nell'anagrafe devo anche indicare chi lo occupa come conduttore, no? Questo uno, quindi privacy sotto questo profilo non ce n'è assolutamente. Per quanto riguarda il caso dell'ascoltatore di Viterbo, È vero che insomma si vive in condominio, il vivere in condominio comporta anche determinati riservi, determinate magari preoccupazioni di andare a crearsi una brutta immagine di fronte al condomino, che, esatto, effettivamente senza riscaldamento però in qualche modo si riscalderà, ma facciamola fare l'amministratore la figuraccia, che diventa un po' il parafulmine, no, degli altri condomini. In che senso? Il condomino che si accorge che quello vicino a lui non ha riscaldamento, quindi in qualche modo si scalda, no, lo comunica all'amministratore. Sarà l'amministratore a invitare poi il condomino a dire scusa, mi risulta che tu sei senza riscaldamento, ma come ti scaldi? E il condomino è obbligato a rispondere, perché nel momento stesso, e certo, nel momento stesso che non risponde, poi l'amministratore ha tutti i mezzi a disposizione. Per esempio, che cosa può fare? Mandare non da ultimo anche un giudice. Perché nel momento stesso che io mi scatta l'allarme, cioè il mio pericolo, non devo avere la certezza del mio pericolo, devo andare, caro giudice, io ho un condomino che non usufruisce del servizio di riscaldamento e mette in condizioni di non sicurezza, esatto, tutto non il resto dell'edificio. Cosa fa? Quindi io temo per la sicurezza dei miei condomini, anche perché sono custode dei beni comuni, quindi delle mura e di quant'altro, tu giudici. Tra l'altro, sulla base delle novità della riforma del condominio, questa appunto non è più esattamente una facoltà per l'amministratore, ma quasi un obbligo, un po' come quando capita che ripetutamente un condomino non paghi le spese di condominio, il decreto ingiuntivo, diciamo, dell'amministratore, certo, arriva in 448. Entro 6 mesi, deve agire, peraltro appena di revoca, no? Appena di revoca. Quindi è vero che la riforma non ha dato un preciso potere dell'amministratore di entrare nelle case altrui, c'era stato nei vari disegni di legge, poi l'avevano tolto perché effettivamente è un po' forte, però i mezzi li ha. i mezzi li ha, e ripeto, non da ultimo anche un giudice che gli impone di entrare nell'appartamento, lo autorizza a entrare nell'appartamento. E insomma, allora, guarda, proprio le scimmie che non vedono, non sentono e non parlano non esistono più, quindi in questi casi sono tanti impiccioni che si fanno gli affari nostri, insomma, per tante cose, ma quando ci sono anche le questioni di sicurezza, fatevi avanti in quel momento, esatto. Direi, ecco. Luigi da Milano, benvenuto. Grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Allora, ascolti, io sono un condomino e il condominio interessato non ha una certificazione, sia quella elettrica che tutte quelle che viene. Il problema che pongo io è questo, in assemblea, anche l'ultima, non si è raggiunto il quorum per poter deliberare per i preventivi che c'erano per poi fare sti lavori. Allora, di fronte a un eventuale incidente, i condomini presenti sono responsabili come quelli mancanti? Luigi, grazie per questa sua domanda. C'è chi con grande senso civico del dovere le assemblee di condominio le frequenta, anche se sono noiose, sono sempre, come dire, quel luogo dove si verifica veramente di tutto, le liti, le discussioni, però insomma è la vita del condominio. Se andiamo ad abitare in un appartamento come condominio dobbiamo sapere che abbiamo anche questo impegno, e invece vanno spesso e volentieri deserte, avvocato Cirla, anche quando si devono prendere decisioni molto importanti, come nel caso appunto di queste edificio che abita Luigi. Certo, una premessa: è chiaro che il condominio comunque deve avere le sue belle certificazioni, sia degli impianti, sia sotto il profilo energetico e quant'altro. Perché? Perché comunque è un obbligo dell'amministratore, no? E quindi nel caso di incidente o qualcosa, ovvio che il condominio fuori norma, poi dopo i suoi guai se li passa, no? In battuta, ovvio, l'amministratore, perché lui ha il potere d'impero, in caso di urgenza può intervenire anche senza l'assemblea. Per quanto riguarda invece i condomini, diciamo così, un po' assenteisti, ne rispondono comunque, al pari dei presenti, purtroppo, ecco. Perché non è che i presenti, in condominio vige il principio della maggioranza, quindi se non c'è la maggioranza le opere non si possono fare, ma c'è sempre il problema dell'amministratore: in urgenza può intervenire. Poi dopo sarà un suo problema recuperare la provvista, ma potrà addirittura emettere rate straordinarie per fare questi lavori che sono imposti dalla legge, e se non lo fa, attenzione, perché ne risponde lui penalmente. Ne risponde. Non può l'amministratore dire: ma io non ho il quorum e non faccio i lavori. Assolutamente, perché le ultime pronunce che ci sono state proprio dalla Cassazione, dalla Suprema Corte, dice: eh no, caro amministratore, tu hai il potere di intervenire d'urgenza e quindi devi provvedere. Ma se non allora questa provvista di cui lei parla, quindi deve tirar fuori, anticipare naturalmente i soldi per poter fare i lavori, per mettere in una situazione di sicurezza, quindi certificazioni energetiche, quelle che servono nel caso dello stabile dove abita Luigi. Dove li trovi i soldi l'amministratore? No, ecco, è qua la professionalità e l'esperienza dell'amministratore, perché è chiaro che lui deve comunque cominciare a procurarsi la provvista, se non altro. Nel momento stesso che io emetto come amministratore rate straordinarie, per specificando il motivo, allora ho le spalle coperte. Quindi il tema è intanto fare un buon preventivo e spiegare a tutti i condomini che è ora e vanno fatti questi lavori. Fatti, sappiate che vi arriveranno delle richieste di rate straordinarie, nel momento in cui i condomini non pagheranno, prenderà tutte le iniziative. Esatto, intanto però con la certificazione vanno avanti altri 2 anni prima, certo, che arrivi. Questo sì, il problema, però se non altro l'amministratore si tutela. Poi la responsabilità ricade sui condomini, perché se l'amministratore ha fatto tutto possibile per fare le sue opere e quant'altro, la responsabilità ricade a pioggia sui condomini. Quindi insomma, cari condomini, svegliatevi. Non ce la facciamo a sentire la domanda di Andrea da Roma, che voleva raccontarci che ha avuto problemi con lo scarico dell'acqua, è andata a finire al piano di sotto, la perdita, adesso c'è l'assicurazione del palazzo e la sua personale che fanno una lotta per capire chi deve pagare. Anche qua, insomma, un classico. Chi deve pagare in questo caso, avvocato? Secondo dipende lei? Dalla responsabilità. Se è la classica infiltrazione che vengono dalla braga, è ovvio che è il condomino. Se arriva dalla tubazione comune del condominio, verticale o orizzontale, quindi c'è la regola. Ah, guarda qua, quante ne sa questa donna delle braghe, non solo. Allora, la richiamiamo presto, avvocato, per fare invece una esclusiva puntata sul tema delle assicurazioni degli stabili, perché oggi non ce l'abbiamo fatta. Senz'altro. Ma la rifaremo. Grazie all'avvocato Cirla, grazie, buon lavoro. Voi, noi torniamo domani sempre. Lo sai che è un grande 10:30. Musicista l'avvocato Cirla, anche ho suona la batteria. Che bravo. Suona la batteria ed è sempre più bravo. Infatti, sempre più bravo. A domani.